Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci di nuovo insieme, buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati al vostro salvadanaio. Il mercato delle obbligazioni è stato sempre un porto molto ricercato dagli investitori italiani. Negli anni passati, come molti di voi ricorderanno, i piccoli risparmiatori sono stati definiti per lungo tempo bot people, cioè il popolo dei bot e dei BTP, perché l'attitudine delle famiglie era di ricercare l'investimento a minor rischio e di non ricercare investimenti ad elevati contenuti di rischio. Da qualche tempo questi porti, e cioè mi riferisco appunto a quelli obbligazionari, sono diventati molto meno remunerativi del passato, in particolare appunto il settore dei titoli di Stato, visto che i tassi di interesse sono molto bassi, forse lo saranno a lungo per sostenere l'economia. Ma è anche vero che, a parte questo, l'offerta del settore obbligazioni si è arricchita notevolmente negli ultimi anni. Oggi ci sono i bond societari, bond bancari, bond strutturati, quindi siamo diventati bond people. Insomma, tante opportunità. Ovviamente qualche volta la terminologia inglese la dobbiamo utilizzare, ma in sostanza siamo diventati, come dire, risparmiatori orientati sempre di più al settore obbligazionario, ma non più solo quello governativo. Ci sono tante opportunità, in certi casi anche piuttosto interessanti, ma di cui spesso i piccoli risparmiatori non conoscono la dinamica, anche se ricercano questo segmento di investimento, e a volte incappano in brutte sorprese, a cominciare magari da rendimenti non in linea con le attese o con le promesse delle intermediario presso il quale hanno acquistato questi prodotti di investimento, fino poi ai casi più clamorosi e rari, per fortuna, dei fallimenti delle società emittenti che mandano in fumo completamente l'investimento. Basta che ci ricordiamo di Cirio, di Parmalat o dei bond argentini. Allora, tutto questo per dirvi che cosa? Che c'è una banca, Royal Bank of Scotland, la cui divisione italiana, molto attiva nel settore obbligazionario, sta organizzando una serie di seminari pubblici sul territorio proprio per spiegare in cosa consiste l'investimento in obbligazioni, come scegliere il prodotto di investimento più adatto alle proprie esigenze in questo settore. Allora noi stamattina ci faremo spiegare la filosofia di questa iniziativa, ma soprattutto con i due esperti che abbiamo individuato vi spiegheremo tutto ciò che non sapete sul settore obbligazionario qualora siate orientati ad investire in questo settore, se non lo avete mai fatto, se magari lo avete fatto e avete così intercettato anche una brutta sorpresa sul vostro percorso. Allora, buongiorno a Nicola Francia, responsabile strumenti quotati Italia di Royal Bank of Scotland, anche se con lui ci colleghiamo a Londra. Dottor Francia, buongiorno, benvenuto a Salvadanaio. Grazie, buongiorno a voi. E buongiorno e grazie anche di essere con noi a Luca Bagato, trader specialista sui mercati obbligazionari, anche consulente indipendente, oltre a questi anche consigliere di MTS SP di Borsa Italiana, e quindi quel segmento dove possiamo proprio andare a ricercare gli strumenti obbligazionari quotati sulla Borsa Italiana. Dottor Bagato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E grazie anche a lei di essere con noi. Peraltro sia Francia che Bagato saranno due dei docenti impegnati in questi seminari appunto organizzati sul territorio. Vi daremo le date se siete interessati, naturalmente vi daremo anche le località in cui si svolgeranno, ma soprattutto stamattina vi daremo delle risposte alle vostre domande su questo argomento. Domande che ci potete fare all'800 24 00 24 per intervenire in diretta, o oppure alle 349 238 6666 se invece di chiamarci volete intervenire con la modalità SMS. Prima di parlare di obbligazioni, però, andiamo a vedere sul mercato azionario cosa accade questa mattina. Ieri ci sono stati dati nel settore immobiliare positivi dagli Stati Uniti che hanno incoraggiato di nuovo gli acquisti, quindi terza seduta di ripresa per il mercato internazionale appunto azionario. Oggi l'Europa consolida i guadagni di ieri, abbiamo un più 0,3% a Parigi, un più 0,2% a Francoforte, abbiamo Londra con un più 0,21%, Milano più 0,19% in questo momento. Peraltro oggi arrivano numerosissimi dati economici dagli Stati Uniti, abbiamo anche le statistiche preliminari sull'occupazione, questo è un dato molto importante soprattutto alla luce del fatto che poi venerdì arriva il tasso di disoccupazione di gennaio dell'economia americana, e come sapete è un faro, quello assolutamente guida in questo periodo per i mercati. Abbiamo molte trimestrali, avremo quella di Cisco, avremo quella di Pfizer, quindi comparto farmaceutico, avremo quella di Time Warner, quindi l'entertainment. Tra l'altro abbiamo avuto nelle ultime ore anche i dati della News Corp di Murdoch, quindi un settore che va molto bene, anche se i risultati di quel gruppo, questo magnate dell'editoria, sono stati trainati soprattutto dai risultati ottenuti al botteghino da Avatar, quindi questo grande colossal cinematografico che peraltro farà anche incetta di Oscar, se non sbaglio, insomma, se le indiscrezioni non sono sbagliate, quelle che almeno circolano sui giornali in questi giorni. Ma ritorniamo noi a Piazza Affari. Mediolanum più 2,20%, il titolo guadagna a dispetto di questa indagine su 50 promotori finanziari accusati di evasione fiscale. Il mercato trascura completamente questa notizia, il titolo corre. Fondiaria più 1,84, Ansaldo più 1,69, A2A e Finmeccanica insieme ad STM, Exor e Generali in rialzo di un punto, mentre, come dicevamo anche nel giornale radio, oggi frena la speculazione su Telecom, il titolo è in ribasso di 2 punti. Ieri però ne ha guadagnati 6, per cui c'è qualche presa di profitto da parte di qualche investitore più prudente che magari non crede a questa integrazione con Telefonica, che sarebbe anche sponsorizzata dal governo. Insomma, oggi e domani, nei prossimi giorni, arriveranno tutti i chiarimenti e si farà probabilmente più luce anche su questa eventualità. In pregilo meno 1,43 Bulgari ed Atlantia in ribasso di 1 punto. L'euro ha recuperato la soglia di 1,40 sul dollaro. Noi possiamo lasciare la borsa per andare al tema di questa mattina. Parliamo di investimento in obbligazioni, ci sono notizie che arrivano anche relativamente alla questione greca. Sentiamo però prima la nostra piccola scheda. Guardare oltre la crisi, cercare rendimenti interessanti e investimenti alternativi alle borse. Sono queste le ragioni che hanno spinto grandi e piccoli investitori a tornare alla carica sul mercato delle obbligazioni. Da bot people a bond people? Sembrerebbe proprio così, anche se il boom di emissioni obbligazionarie che ha caratterizzato in particolare il 2009 è destinato in larga parte al pubblico istituzionale. In Italia soprattutto, perché sono ancora poche le aziende che si rivolgono ai mercati per raccogliere fondi. Negli ultimi 2 anni solo Enel ed Eni hanno deciso di riservare ai piccoli investitori alcune delle loro emissioni, riscuotendo grandi successi. Ma quali sono gli accorgimenti da adottare se si ha intenzione di inserire obbligazioni nel proprio portafogli? Ce lo faremo spiegare questa mattina da Nicola Francia e Luca Bagato. Francia, io comincio con lei, perché l'iniziativa di cui parlavamo, che sta già suscitando qualche attenzione da parte dei nostri ascoltatori, è quella di portare un po' in giro per il territorio tutta l'informazione che è necessaria per chi vuole investire in questo settore. Io prima ho detto anche che siete molto attivi nella emissione di obbligazioni proprio con il marchio della vostra banca, poi ci spiegherà anche quali sono le più recenti e soprattutto quali sono le più ricercate da parte dei risparmiatori. Ma perché vi siete mossi in questo senso? Che tipo di domande vi aspettate dal popolo dei risparmiatori che probabilmente chiamerete a raccolta? E mi chiedo soprattutto se non sia solo un'iniziativa commerciale per poi, come dire, intercettare nuovi risparmiatori a cui vendere i vostri prodotti. Non è che la voglio provocare in maniera cattiva, ma credo che la curiosità sia legittima. Dottor Francia. Certo, ma in realtà questa è un'iniziativa che noi ripetiamo già da alcuni anni, quella di fare appunto dei seminari gratuiti nelle maggiori città italiane. Lo facciamo principalmente con l'intento di rispondere a domande e avere anche un po' il polso della situazione sul territorio, insomma è un po' un modo per essere a stretto contatto e vicini a chi poi alla fine compra i nostri prodotti. Ovviamente abbiamo, come dire, una finalità commerciale, ma non è quella che ci preme, perché non avendo noi sportelli in Italia e una vendita diretta al pubblico, come dire, non abbiamo questo tipo di attività. La novità un po' quest'anno è che parliamo di investimenti obbligazionari, mentre in passato ci eravamo focalizzati su prodotti meno di massa. E l'altra novità è che il seminario dura un giorno intero, quindi dalle 9 di mattina alle 17, quindi diamo veramente, mettiamo a disposizione la nostra preparazione e la nostra presenza lì, così come quello degli altri relatori, come appunto il dottor Bagato o Stefano Fanton, che insomma sono sicuramente conosciuti nel mondo degli investimenti privati. Mm-hmm. E praticamente noi lo vediamo come un corso intensivo, perché dura un giorno appunto in obbligazioni, col vantaggio di essere completamente gratuito. Perché proprio sulle obbligazioni, adesso a prescindere dal fatto che voi siete molto attivi, ma noi abbiamo spesso evidenziato come nel nostro paese, ma forse, come dire, c'è bisogno anche in altre parti del mondo, c'è grande grande bisogno di educazione finanziaria a 360 gradi anche per investire sul mercato azionario, c'è bisogno di sapere tantissime cose, dottor Francia, così come per esempio anche per aprire un conto corrente piuttosto che, quindi perché questo settore? Perché comunque è quello che vi interessa di più, immagino. Ma, diciamo che è quello che interessa, come dicevamo nella scaletta iniziale, quello che interessa di più in questo momento agli investitori italiani ed è quello in cui probabilmente in questo momento c'è bisogno di maggiore chiarezza, di maggiore trasparenza, insomma di approfondire l'argomento. In realtà mi sono limitato a parlare di obbligazioni, ma erroneamente, perché noi l'idea è quella, la scaletta prevede nella mattina un approfondimento dei temi obbligazionari e nel pomeriggio un vantaglio un po' più ampio andando ad affrontare tematiche di portafoglio, certo, di portafoglio evidentemente per spiegare come funziona un'obbligazione. Chiaramente se si vanno a monitorare un po' i rendimenti è chiaro che poi li si dovranno anche relazionare rispetto agli altri, alle altre asset class, le altre appunto classi di investimento. Benissimo, allora io volevo dire che si comincia il 5 febbraio a Dolo, Padova, Venezia, l'8 febbraio a Milano, poi vi do anche le altre date, ma naturalmente sul sito della banca si possono trovare tutte le informazioni. Luca Bagato, vengo da lei, lei è il nostro specialista di questa mattina, per cui sarà il tecnico, ma non perché Francia non potrà rispondere, farò rispondere anche a lui, ovviamente, a cui potranno rivolgersi i nostri ascoltatori. Quando noi parliamo di obbligazioni, o forse questo accadeva magari prevalentemente in passato, si tendeva molto a credere che il mercato dei titoli obbligazionari in termini generali, ma soprattutto quello dei titoli di Stato, fosse il porto in assoluto più sicuro di tutti. Oggi mi pare di capire che non sia più così, nel senso che chiaramente anche alla luce della crisi finanziaria enorme che abbiamo attraversato e che stiamo ancora attraversando da 2 anni a questa parte, anche sul mercato dei titoli di Stato di scossoni ne abbiamo visti tanti. Basti vedere che cosa è successo settimana scorsa con la famosa maxi asta che ha riguardato appunto il governo di Atene. Poi sulla Grecia devo tornare tra qualche motivo. Per cui, non lo so, questi corsi servono anche un po' ad educare su questo fronte. Non c'è nessun tipo di investimento che sia assolutamente, come dire, certo al 100%, quindi bisogna anche un pochino sfatare un mito? Ma allora, innanzitutto, appunto, ancora buongiorno. Il discorso dell'obbligazionario, sicuramente bisogna fare anche un distinguo per quanto riguarda il percorso storico. Non va dimenticato che quando io ho iniziato a fare trading, cioè nel 1990, quindi parliamo di un bel po' di tempo fa, insomma, i titoli più lunghi erano i titoli più o meno a 4 anni. Dopo il Tesoro italiano, e in quel momento chiaramente ogni, diciamo, investitore, ogni poi anche banca tendeva a diciamo così scambiare maggiormente per posizioni di rischio su titoli obbligazionari domestici, per cui banche anche di investimento americane in Italia avevano maggiormente posizioni sui BTP, stessa cosa magari banche francesi, banche di investimento in Francia avevano maggiormente posizioni sugli OAT. Ma mentre gli altri paesi avevano già vissuto una sorta di evoluzione finanziaria che aveva allungato un po' le scadenze, l'Italia questa evoluzione finanziaria l'ha vissuta dal 1990 in avanti. Questo chiaramente è importante perché abbiamo vissuto l'evoluzione finanziaria un po' di pari passo poi con quello che sono state le grandi crisi, se vogliamo, poi del mercato. La prima importante nel 92 quando la lira è uscita dallo Smessi. E poi chiaramente abbiamo affrontato il discorso anche della crisi della Russia nel 98, eccetera, eccetera. Il mercato si è evoluto, ha creato insieme ai titoli obbligazionari anche i titoli derivati, questo però ha comportato una maggiore volatilità. I titoli man mano che allungavano la scadenza diventavano sempre più interessanti, perché io posso comprare anche oggi un rendimento a 10 anni in Europa al 3,60%, ma quello è un rendimento che io fisso e calcolo oggi. Dopo devo fare delle ipotesi e dei ragionamenti se effettivamente durante il corso del tempo quel rendimento rimarrà uguale, mentre invece il problema non sussiste per chi tiene il titolo fino a scadenza. Quindi diciamo bisogna distinguere quindi due aspetti: l'aspetto del rendimento che oscilla giorno per giorno insieme alle quotazioni, quindi col prezzo che scende il rendimento sale e viceversa, e questo chiaramente inserito in un mercato internazionale con flussi molto veloci ha creato anche veloci spostamenti. Quindi se l'Italia era un paese caratterizzato da un proprio rischio politico ed economico prima dell'entrata nell'euro, con l'entrata nell'euro è diventata di fatto molto più assimilabile poi agli andamenti degli altri paesi che compongono appunto l'eurozona. L'altro aspetto importante... Non riusciamo ad analizzarlo, Bagato, siccome mi sembra molto importante quello, immagino, che le ho sollecitato sulla certezza di un tipo di investimento di questo tipo, è talmente delicato che voglio affrontarlo con calma nella seconda parte di Salvadanaio. Allora, oggi a Salvadanaio siamo ritornati a parlare di un settore di investimento che è molto frequentato dai risparmiatori italiani, il segmento obbligazionario, e chiaramente ne parliamo perché, alla luce anche di quanto accaduto sui mercati negli ultimi 2 anni, anche questo settore, che generalmente viene ritenuto un porto sicuro, molto tranquillo, è stato invece sottoposto a grandi oscillazioni, anche alla luce delle novità che sono arrivate sul mercato negli ultimi anni. Ce lo spiegava uno dei due esperti nostri di questa mattina, Luca Bagato. Diceva, insomma, all'inizio degli anni 90, ce lo ricordiamo tutti, le obbligazioni per esempio governative italiane al massimo raggiungevano i 4 anni, adesso invece abbiamo scadenze molto più lunghe. Questo naturalmente comporta anche un incrocio di tutti questi prodotti sul mercato, che arrivano anche dalle altre grandi economie, di conseguenza più volatilità. Adesso sì, lo so, l'ho spiegato un po' in maniera maccheronica, ma in sostanza la questione è questa. Detto questo, Bagato, prima di farci spiegare anche da lei se effettivamente oggi si può dire che l'investimento nel settore governativo, titoli di Stato, corrisponda appunto anche a certezza al 100%, con l'Argentina abbiamo appreso che così non è, volevo per un attimo ritornare a Nicola Francia, responsabile strumenti quotati Italia di Royal Bank of Scotland e promotrice di questa serie di seminari sul territorio, proprio per spiegare fondamentalmente come funziona l'investimento in questo ambito. Non la voglio mettere naturalmente in difficoltà, ma ci sono molti ascoltatori che ci chiedono, ma insomma sappiamo che questa banca sta mettendo tante obbligazioni, e forse perché si trova in cattive acque. Noi sappiamo quello che è successo negli ultimi mesi, Royal Bank of Scotland è stata la banca sulla quale il governo britannico è dovuto intervenire in maniera più pesante, ha ricevuto aiuti per qualcosa come 420 miliardi di euro, e il secondo gruppo inglese che ne ha ricevuti parecchi è stata Lloyds, che ne ha ricevuti qualcosa come 320-330, qualcosa del genere. Francia, vogliamo rispondere agli ascoltatori che esprimono queste perplessità? Ma allora, che Royal Bank of Scotland sia stata, come dire, una delle, ed è tuttora una delle banche con il maggiore bilancio, la maggiore esposizione alla crisi del credito a cui abbiamo assistito, è noto a tutti. Diciamo che la situazione oggi è cambiata perché, come diceva lei, il governo è intervenuto nella banca al pari, insomma, di altri governi in altri paesi, e ha in questo momento l'85% del capitale sociale della banca è appunto in mano al governo. Ha inoltre, la banca ha negoziato col governo questo Asset Protection Scheme, che se vogliamo una sorta di polizza assicurativa che la banca ha da parte del governo sugli asset più rischiosi del proprio bilancio. Quindi insomma, sicuramente la situazione è molto diversa rispetto a un anno fa. Il mondo in generale non è ancora uscito dalla crisi, ma la banca ha fatto i primi step importanti per essere ben posizionata nei prossimi anni, nel momento in cui le cose dovessero migliorare. E così abbiamo accontentato, insomma, chi voleva anche una posizione su questo. Ritorniamo a Luca Bagato, il nostro trader specialista sui mercati obbligazionari. Non avevo fatto completare il discorso prima della nostra pausa, il tema era quello dell'equivalenza al termine obbligazione, corrisponde sempre il termine certezza, sicurezza, Bagato? Sicuramente più che altri investimenti. Mi ricordiamo sempre che un investimento è sempre in qualche modo una scommessa, tra virgolette, che un investitore fa su quello che può essere l'andamento del suo investimento nel futuro. Quindi più è breve questa scommessa, più solitamente, e soprattutto in campo obbligazionario, più questa scommessa in qualche modo può essere ritenuta sicura. Ovviamente la sicurezza, come il mercato sta esprimendo in questo periodo, riesce a essere vista dagli investitori per la maggior parte sui bot, poi perché abbiamo fatto questo salto, se vogliamo tra virgolette pazzesco, che dall'investire su strumenti altamente rischiosi prima della crisi di Lehman Brothers al tornare ad essere dei bot people, e quello chiaramente non fa bene neanche al mercato. Quindi l'eccesso di panico poi che questa crisi ha provocato ha colpito in maniera pesante anche le obbligazioni, e in qualche modo il mercato ha un po', se vogliamo, travisato quelli che sono i contorni del rischio. Un rischio emittente per un paese sovrano, soprattutto che appartiene a un bacino come quello dell'Eurozona, può essere più o meno elevato, l'abbiamo visto e ne parleremo dopo, per i paesi magari periferici come Spagna, Portogallo, Grecia e in parte anche l'Italia, sì. Però poi risulta molto basso per quanto riguarda appunto paesi core dell'Eurozona come possono essere Francia e Germania, chiaramente questo non vuol dire che il prezzo dell'obbligazione non oscilli, cioè se la gente pensa che sicurezza vuol dire investire e ottenere un rendimento sicuro ogni sei mesi senza avere un impatto sul prezzo, questo si può ottenere solo con un'altra tipologia di investimento che non sono obbligazioni. Che è come mediamente il conto di deposito, adesso se proprio vogliamo fare un esempio, ecco la cosa più liquida rispetto diciamo al bot o al, come dire, al titolo di Stato anche. E infatti rende allo 0%, purtroppo, per questa ragione, molto vicino allo 0%, infatti le banche, l'hai visto, pubblicizzano questo 2,5 netto alcune banche, senza appunto fare dei nomi, proprio perché diciamo così attirano in qualche modo l'investitore che non vuole sentire nessun modo parla di rischio, però poi impongono un investimento di almeno un anno o magari una montata di investimenti. Sì, sì, sono magari delle offerte promozionali che durano sicuramente in maniera molto limitata nel tempo, perché poi anche queste banche, abbiamo visto negli ultimi anni, anche quelle che cercavano di attirare nella maniera più vistosa possibile i clienti, poi chiaramente riuscivano a spuntare e a garantire questi rendimenti per pochi mesi. E poi chiaramente con la riduzione dei tassi di interesse in Europa si sono dovute adeguare, quindi anche chi ha piazzato il denaro sperando di spuntarla meglio rispetto al titolo di Stato alla borsa, sicuramente anche lì è rimasto, non dico scottato, ma non ha ottenuto granché. Detto questo, allora io volevo, adesso abbiamo gli ascoltatori a cui ho promesso di intervenire, chiaramente visto che a loro oggi do l'opportunità di farvi delle domande, spero in maniera più intensa rispetto alle altre puntate. Volevo però aggiornarvi sulla Grecia, perché ieri il premier del governo appunto greco, Papandreou, ha presentato il suo cosiddetto piano di austerità per rimettere i conti in sesto, un piano triennale di risanamento di conti pubblici che prevede il congelamento di tutti i salari pubblici per il 2010, l'aumento dell'età pensionabile, anche nuove tasse sui carburanti e tanto altro ancora. Beh, dall'Unione Europea è arrivato un via libera a questo piano di bilancio, però da Bruxelles si esprime anche tutta l'attenzione ai rischi che questo piano comporta. Adesso io per il momento solamente dei flash d'agenzia, non ho la notizia dettagliata, e addirittura dall'Unione Europea arriva per la Grecia una procedura di infrazione per inaffidabilità statistica. Anche questo sarà molto interessante appunto da monitorare appunto. Magari se avremo qualche dettaglio ve ne darò. Intanto Fabrizio da Firenze, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo un chiarimento, secondo me molto importante, ossia nelle obbligazioni societarie che vengono emesse ci sono delle obbligazioni che hanno un mercato e vengono quotate sul MOT e si possono comprare e vendere come un BTP. Sì. Ci sono delle obbligazioni invece che non hanno, diciamo, questo tipo di privilegio. Le chiedo agli esperti: le obbligazioni societarie che vengono quotate sul MOT e che quindi hanno un mercato danno più cautela da un punto di vista di insolvenza rispetto alle altre? Bellissima. Grazie. Domanda Fabrizio, la ringrazio. Allora ricomincio con Luca Bagato, Nicola Francia non se la prenderà, poi magari se vuole faccio intervenire anche lui su questo. E allora ha ragione Fabrizio, del dubbio che esprime, ma insomma anche una questione di liquidità. Quelle obbligazioni che le società emettono e che non transitano sul mercato disponibile a tutti, dottor Bagato, è perché sono, non lo so, meno trasparenti. C'è un problema di liquidità che però forse non rientra nell'ottica, diciamo, della perplessità trasmessa da Fabrizio. L'investitore dice una cosa giustissima. Diciamo che non c'è un fine vero e proprio di mancata trasparenza. Diciamo che come risultato sicuramente è meglio per un investitore privato muoversi dove la liquidità è evidente. Quindi la trasparenza di un'obbligazione, così come quella di un'azione, è evidente. Nessuno di noi andrebbe più a comprare un'azione non quotata in questo momento. Difficilmente trovo investitori che hanno ancora azioni non quotate nel proprio portafoglio, e invece cerchiamo a volte delle occasioni quando comprare delle obbligazioni non quotate. Come investitore privato è un grave errore, quindi la liquidità di un titolo, il fatto di poterlo seguire giornalmente, addirittura nel caso del MOT parliamo di avere un prezzo costantemente dall'apertura fino alla chiusura, una giornata intera, come una volta avevano appunto i trader professionisti per quanto riguardava le obbligazioni societarie. Ci sono società che mettono ancora obbligazioni che non transitano sul circuito del MOT perché comunque il circuito internazionale delle obbligazioni societarie non è al momento trasparente. E la Borsa Italiana in particolar modo sta lanciando proprio in questi giorni un circuito trasparente anche in Inghilterra, siamo in questo senso pionieri, però bisogna ricordare che è una novità voluta, secondo mio parere, con molta lungimiranza da chi appunto segue questo mercato da molti anni. E il problema invece legato al discorso obbligazione societaria è che questo mercato, anche per diciamo gli intermediari professionisti, è un mercato ancora tutto a video, per cui le quotazioni, facciamo un'ipotesi, delle obbligazioni del settore auto si seguono sul circuito di Bloomberg, sul circuito di Reuters. Ci sono banche che quotano magari perché hanno trader specializzati il settore auto, ma non c'è una vera quotazione di riferimento. Per cui il problema poi è che se questo tipo di approccio viene tradotto per un investitore privato dietro in qualche modo così l'illusione di un rendimento migliore di altri prodotti, la confrontabilità è innanzitutto già a rischio, la liquidità a maggior ragione a rischio. Mm-hmm. Il caso delle banche americane purtroppo hanno evidenziato che molti portafogli, anche di professionisti ma purtroppo anche di privati, erano legati in qualche modo a un settore un po' oscuro, ma non perché fosse oscura l'emissione, perché era stato sbagliato il target del prodotto. Hanno inserito prodotti liquidi, anche a volte ad esempio i prodotti assicurativi che devono essere in qualche modo più sicuri, pensando fossero liquidabili come delle obbligazioni governative. Purtroppo non è così. Ci sono obbligazioni governative anche non quotate in maniera trasparente sul mercato, nel caso dei titoli americani ad esempio, che non hanno un vero e proprio mercato di riferimento, sono quotate ancora sul circuito dei broker in America, così ti interdire broker, ma sono assolutamente liquidi. Mm-hmm. Allora, stavo intanto cercando di orientarmi anche fra le numerose domande che ci stanno arrivando dagli ascoltatori, perché qualcuno addirittura al 349-238-6666 ci indica su un messaggio lunghissimo che si spalma appunto su messaggi diversi tutto il prospetto informativo del prodotto che ha in mano. Io faccio anche molta fatica ovviamente adesso ad interpretarlo, per cui mi atterrò all'ABC sui prodotti di investimento in termini generali. Perdonatemi se poi avete magari bisogno di una consulenza un po' più dettagliata sul vostro prodotto di investimento, scriveteci, io girerò ai nostri esperti appunto le vostre domande. Faccio fare la domanda a Paolo da Modena, dopodiché andiamo con il Via Libera. Paolo, buongiorno. Ah, buongiorno, ovviamente mi complimento con la trasmissione. Grazie. Comunque chiedevo questo: io investo in obbligazioni da qualche anno e ho difficoltà a reperire informazioni. E le spiego, trovo titoli con cedole molto interessanti, però che ormai sono distanti dall'emissione, prossimo alla scadenza, e hanno prezzi elevatissimi, mm-hmm. cioè abbondantemente superiori a 100, quindi erodono quello che è la cedola. Morale, dove posso trovare informazioni ad esempio sulle nuove emissioni? Oppure ci sono anche obbligazioni di emissione lussemburghese con titoli con rendimenti molto interessanti che non sono più disponibili. Benissimo. Morale, spesso arrivo tardi, ecco. Infatti Paolo, abbiamo capito. Eccoci ritrovati naturalmente nel corso della nostra pausa. Abbiamo sentito anche la pubblicità sul conto di deposito di cui parlavamo prima. Casualmente, non sapevo che ci fosse, vabbè, comunque capitano abbastanza spesso nel corso del nostro palinsesto. Allora, Nicola Francia, voglio venire da lei se sarà sentiva di rispondere a Paolo da Modena, che dice insomma che per certe tipologie di obbligazioni non trova informazioni a sufficienza, forse perché è bene che magari gli piccoli investitori da certi prodotti siano un po' lontani. Adesso io non so se banalizzo in maniera estrema la questione, però forse sono titoli assolutamente poco liquidi quelli a cui si riferiva il nostro ascoltatore Emiliano. La domanda era proprio sul fatto che i prezzi oggi sono molto distanti rispetto al prezzo di emissione. Questo deriva dalla performance del mercato obbligazionario a cui abbiamo assistito dal vero e proprio boom a cui abbiamo assistito nel 2009, quindi effettivamente un titolo emesso l'anno scorso oggi è, per il restringimento del credit spread e per l'andamento dei tassi, molto probabilmente ha performato in maniera importante, quindi il rendimento viene eroso. Dove poter trovare nuove emissioni? Il mio consiglio è, come dicevamo prima, di rimanere su titoli quotati, possibilmente in borsa italiana. L'ascoltatore citava dei titoli quotati in Lussemburgo. Tendenzialmente i titoli quotati a Lussemburgo, tranne casi eccezionali, sono titoli riservati ad investitori istituzionali e quindi senza prospetto informativo, e quindi anche, insomma, se vogliamo, meno trasparenza dal punto di vista dell'informativa. Io rimarrei su titoli quotati sul nostro mercato domestico, che prevedono un prospetto informativo di offerte e quotazione, tagli minimi da 1000 euro e quindi adatti a investimenti privati, e tutte le informazioni sulle nuove emissioni sono rintracciabili sul sito di Borsa Italiana. A proposito di nuove emissioni, voi tra l'altro a gennaio ne avete emesse altre 4, se non sbaglio, portando a 15 complessivamente il numero delle obbligazioni di casa vostra quotate sulla Borsa Italiana. Che caratteristiche hanno questi prodotti e soprattutto a che tipo di domanda avete voluto rispondere, dottor Francia? Ma Corretto, allora adesso abbiamo un'offerta di 15 obbligazioni, ne abbiamo un po' di tutti i tipi, nel senso che abbiamo i tassi fissi, abbiamo dei tassi variabili, ovviamente anche su varie scadenze, a breve durata, medio durata o durata un po' più lunga. Abbiamo anche dei tassi misti, quindi magari delle prime cedole fisse e poi delle cedole indicizzate all'andamento dei tassi, dell'Euribor piuttosto che l'inflazione. Perché nasce questa nostra iniziativa? Innanzitutto andiamo in quotazione diretta appunto sulla borsa italiana, evitando tutte le problematiche di cui discutevamo prima di liquidità e trasparenza, quindi sono obbligazioni con un prospetto informativo che vengono quotate al MOT in borsa italiana, sono quindi facilmente accessibili a tutti in tagli minimi e con grande liquidità, questo evitando ovviamente anche i rischi di cui parlavamo prima, nel senso che in casi, come dire, di difficoltà degli emittenti si può provare a venderle in borsa in ogni momento. Da dove deriva questa iniziativa? Deriva dalla presa d'atto del grande boom del mercato obbligazionario l'anno scorso, di cui purtroppo in Italia gli investitori privati hanno potuto beneficiarne ben poco. Questo perché? Perché molte delle obbligazioni emesse in questi anni sono state riservate ad investitori istituzionali e quindi non presentano prospetto informativo, non sono facilmente accessibili a un investitore privato e se lo sono, lo sono con tagli minimi da 50.000 euro. Infatti era un aspetto che volevo sollevare anche con voi, perché molto spesso parliamo anche di scarsa di liquidità, ma effettivamente anche a volte i tagli di investimento su certi prodotti sono inaccessibili per un piccolo risparmiatore quantomeno intenzionato a diversificare un pochino, dottor Francia, perché poi la regola quella non ce la dimentichiamo mai. Quindi diciamo, facciamo un esempio pratico, se uno avesse 100.000 euro da destinare a investimento obbligazionario potrebbe comprare solo due titoli, quindi come dire concentrando parecchio. Esatto, diversificazione zero. Quindi un po' da questo è nata questa nostra iniziativa di poter dare dei titoli con dei buoni rendimenti e con tanta liquidità e facile accessibilità. Allora c'è un ascoltatore che ci ha chiamato all'800 24 00 24 e adesso si sentirò anche Giuseppe da Como, ce n'erano altre domande interessanti che ho spulciato adesso sul mio monitor, quella di Giorgio da Varese credo, che chiedeva se è interessante dal punto di vista obbligazionario seguire anche i cosiddetti, io so che qua devo dare un altro termine molto complicato e duro un po' da digerire anche per chi lo ascolta, ma in realtà sempre più diffuso sui giornali in questi giorni, i cosiddetti credit default swap, che sono, come spiega molto bene questa mattina il collega Moria Longo sul Sole 24 Ore, queste speciali polizze per assicurarsi contro i default, perché pare che i prezzi di queste polizze siano schizzati soprattutto per assicurarsi contro le insolvenze degli stati sovrani molto di più che per assicurarsi nei confronti di default o bancarotte delle imprese. Luca Bagato, cosa ne pensa? Allora, innanzitutto il credit default swap è proprio il classico prodotto che un investitore privato non dovrebbe neanche vedere. Neanche leggerlo, ecco. Se non per questioni di valore indicativo, nel senso che il credit default swap è diventato un mercato robusto perché le emissioni derivate strutturate hanno reso necessario coprire sempre più rischi emittenti. Sono famose chiaramente i rischi di copertura sulle banche americane poi fallite. Ci sono credit default swap anche sul rischio sovrano, quindi sui singoli paesi, come può essere l'Italia, la Spagna, la Germania, che più delle volte sono in qualche modo un'alternativa rispetto al canonico, alla canonica osservazione del differenziale del rendimento, ad esempio tra un titolo a 10 anni e BTP e quello tedesco, il Bund tedesco, che dà l'idea del rischio Italia. Ma gli investitori privati dovrebbero tenersi bene alla larga, perché chiaramente il credit default swap ha una struttura, diciamo così, di espressione poi dell'eventuale evento, quindi qualcosa che comunque fa scattare determinati diciamo segnali anche legali, se vogliamo, e quindi azioni che ne derivano, che è molto complessa. Quindi non è assolutamente uno strumento che un investitore privato può affrontare, non è facilmente traducibile il fatto che se c'è un evento automaticamente io sono coperto da questo rischio, perché più delle volte, ad esempio come è successo nel caso Parmalat e come qualcuno scoprì nel 2003, il credit default swap su Parmalat faceva scattare la consegna del titolo obbligazionario equivalente, quindi c'era più una copertura sul rischio Parmalat, ma dietro cui c'era ad esempio la necessità, una volta che il rischio di fallimento si fosse manifestato, cosa che purtroppo è avvenuta nel dicembre, se non ricordo male, del 2003, poi automaticamente bisognava comunque consegnare il titolo obbligazionario, ma era un titolo irreperibile sul mercato. Chi chi non è riuscito a consegnarlo automaticamente poi non è riuscito a chiudere un contratto. No, io ho preso questo spunto di questo ascoltatore, dottor Bagato, perché chiaramente allora a questo punto io mi chiedo, visto che anche, come dire, la reputazione dei rating delle grandi società che elaborano questi parametri per darci la misura dell'affidabilità del debito o di un'azienda o di uno Stato, visto che non sono più tanto affidabili perché quantomeno la loro affidabilità e reputazione si è molto un po', esatto, deteriorata e compromessa, se anche questo parametro, se anche, come dire, fossimo molto evoluti come risparmiatori e ci capissimo qualcosa sul credit default swap, se anche questo lei ci dice, insomma, magari un piccolo risparmiatore non lo guardi tanto, che cosa dobbiamo guardare per capire se un emittente è affidabile o meno? Sono le cose più semplici, nel senso che innanzitutto il portafoglio bisogna sempre tararlo secondo il proprio grado di rischio. Se io inserisco in un portafoglio in questo momento 100% di azioni del Giappone, poi non mi devo spaventare se, e neanche lamentare se il Giappone è il paese che magari esce dalla crisi più lentamente. Stessa cosa, se su un portafoglio obbligazionario per riuscire a raggiungere un rendimento ipotizzato di 3-4 punti superiore a quello dei nostri BTP, inserisco obbligazioni altamente rischiose, tra cui magari la Grecia per la parte breve, poi non mi devo lamentare se il rischio della Grecia comincia a comparire sul mercato. Dietro il rendimento c'è sempre un concetto di rischio. E infatti. Non c'è nessun derivato che ci possa aiutare in questo, se non delle coperture abbastanza complesse attraverso delle opzioni che costano, guarda caso. Dico sempre, infatti, anche nei miei corsi a investitori privati, che non a caso un'opzione ha un costo. Se io voglio coprirmi oggi da un rischio comunque di risalita dei rendimenti e compro un'opzione che mi copra da questo rischio, magari sul mercato tedesco, per coprirmi dal rischio che so su un titolo bobble tedesco, quindi a 5 anni, questa opzione ha un costo, che so, 150 euro, ma è sempre un costo, vuol dire che per ogni chiaramente 1000 euro investiti nel portafoglio devo comunque spenderne almeno 150 per coprire questo rischio. E comunque l'opzione in questo caso è molto liquida, la posso vendere in ogni momento. Se io compro un CDS perché penso di aver capito che così mi sono coperto dal rischio, blocco il portafoglio a liquidità per molto tempo su uno strumento che è una polizza assicurativa complessa, molto complessa, perché è tarata ed è ritagliata. E quindi, insomma, lasciamola agli investitori più tagliati per fare operazioni di questo tipo, quindi cosiddetti istituzionali. Allora, io non riesco a far intervenire Giuseppe da Como e Daniela da Napoli. Giuseppe voleva chiederci se credo l'investimento, per esempio, in fondi di investimento per scegliere appunto il mercato obbligazionario fosse una scelta conveniente. Beh, sicuramente Francia, magari facciamo una piccola parentesi su questo, sicuramente almeno un fondo consente la massima diversificazione possibile rispetto a quello che dicevamo prima, che magari per certi tagli di investimento a volte ci impongono di comprare appena due obbligazioni. Non so se vuole fare un commento su questo, ma le chiedo proprio in 10 secondi di farlo, grazie. Sono assolutamente d'accordo, il fondo ci dà la massima diversificazione, è importante cercare di capire quali sono le regole a cui si attiene il gestore in termini di duration e insomma di selezione degli emittenti. Benissimo, sente la musica, devo salutarvi, io vi ringrazio, a tutti coloro che ce lo chiederanno daremo le indicazioni per andare a capire se si possono seguire i corsi di Royal Bank of Scotland. Grazie intanto a Nicola Francia, Luca Bagato per essere stati con noi di Salvadanaio, torniamo domani, parleremo del risparmio dei più piccoli. Buona giornata.